Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. L'impresa di Gaetano Saffioti di Palmi ha forse il miglior calcestruzzo della Calabria ed è in grado di assicurare il miglior ciclo del cemento dal movimento terra in avanti. Per questo in regione difficilmente lavora e visto che il titolare è una persona onesta, ecco che dopo aver denunciato Guzzini e cosche mafiose ed essere stato messo ai margini anche dal proprio nucleo familiare, è costretto a vivere da anni sotto scorta e cercare lavoro fuori regione. Come funzionino le cose in Calabria, il collaboratore di giustizia Saffioti lo ha fatto mettere agli atti della recente operazione scaccomatto della Procura di Reggio Calabria. Alcuni anni fa doveva effettuare a Polistena lavori di manutenzione per la Telecom per la misera cifra di 400.000 lire. Accadde, racconta a verbale, che una squadra di miei operai fu bloccata dal capo cosca che pretese di incontrarmi e mi disse che gli avevo mancato di rispetto dal momento in cui, provenendo io da Palmi, prima di fare un lavoro a Polistena, non avevo bussato alla sua porta come avrei dovuto. Il lavoro fu dunque terminato da imprese vicine alla Cosca Longo, ma il paradosso fu che il capo Cosca chiese per il disturbo l'importo complessivo di 2.868.000 lire, pari a 1.481,20 euro. Morale della favola, Saffioti ricevette dalla Telecom 400.000 lire, vale a dire 206,58 euro, più IVA per lavori che non aveva mai eseguito perché effettuati dall''Ndrangheta che, oltre al danno, tentò di imporre anche la beffa, una fattura a Saffioti che avrebbe dovuto corrispondergli 2.868.000 lire per il disturbo. Vi chiederete a questo punto della storia se Saffioti ha pagato e dunque si è piegato ai diktat della mafia. Vi rispondo come mi ha risposto lui quando, nonostante l'amicizia che ci lega, questa domanda ho dovuto porgli alla vigilia di Ferragosto. Ma Roberto, allora mi vuoi offendere. Buona giornata e a domani.